Jonathan, vedendo che il tempo lo favoriva, scelse alcuni uomini e li inviò a Roma per confermare e rinnovare l'amicizia con loro. Anche a Sparta e in altri luoghi egli inviò lettere nel medesimo senso. Quelli andarono a Roma, entrarono nel Senato e dissero: «Il sommo sacerdote Jonathan e la nazione dei Giudei ci hanno inviato affinché vogliate rinnovare l'amicizia e l'alleanza con essi come prima». I romani consegnarono loro lettere per le autorità di ciascun luogo affinché li facessero proseguire in pace fino alla terra di Giuda. Ecco la copia della lettera che Jonathan scrisse agli Spartani. «Jonathan, sommo sacerdote, il senato della nazione, i sacerdoti e il resto del popolo dei Giudei, agli Spartani, loro fratelli, salute». Già nel tempo passato fu inviata al sommo sacerdote Onia una lettera da parte di Areo vostro re, nella quale si diceva che siete nostri fratelli come risulta dalla copia allegata. Onia ricevette con onore l'uomo che gli era stato inviato e accettò la lettera nella quale si parlava chiaramente di alleanza e di amicizia. «Noi dunque, pur non avendone bisogno, poiché abbiamo per nostra consolazione i libri santi che sono nelle nostre mani, abbiamo provato ad inviarvi alcuni per rinnovare la nostra fratellanza e amicizia con voi, in modo da non divenirvi estranei. Infatti, sono passati molti anni da quando voi ci inviaste messaggeri. Noi dunque in ogni tempo e ininterrottamente, nelle feste e negli altri giorni stabiliti, facciamo memoria di voi nei sacrifici che offriamo e nelle preghiere, giacché è giusto e conveniente ricordarsi dei fratelli. Ci rallegriamo per la vostra gloria. Quanto a noi, invece, molte tribolazioni e molte guerre ci hanno stretto all'intorno, poiché i re che sono intorno a noi ci hanno combattuto. Durante queste guerre non abbiamo voluto molestare né voi né altri alleati e amici nostri, perché abbiamo dal cielo l'aiuto sicuro per noi e siamo stati liberati dai nemici che sono stati umiliati. Avendo perciò scelto Numenio, figlio di Antioco, e Antipatro, figlio di Giasone, per inviarli presso i Romani a rinnovare l'antica nostra amicizia e alleanza con loro, abbiamo comandato loro di passare anche presso di voi, di salutarvi e di consegnarvi da parte nostra questa lettera riguardante la rinnovazione della nostra fratellanza. Ora, perciò, farete bene a risponderci in proposito». Ecco la copia della lettera che essi avevano inviato a Onia. «Areo, re degli Spartani, a Onia, gran sacerdote, salute. Si è trovato in uno scritto riguardante gli Spartani e i Giudei che sono fratelli e che sono della stirpe di Abramo. Or dunque, dal momento che noi abbiamo appreso ciò, farete bene a scriverci riguardo alla vostra prosperità. Da parte nostra noi vi scriviamo: il vostro bestiame e le vostre sostanze sono nostri e i nostri sono vostri. Ordiniamo perciò che di queste cose vi sia data notizia». Jonathan, avendo saputo che i generali di Demetrio erano ritornati con un esercito più numeroso di prima per fargli guerra, partì da Gerusalemme e andò a incontrarli nella regione di Amat, senza dar loro tempo di penetrare nella sua regione. Inviò spie nel loro accampamento, e questi, tornati, gli riferirono che si erano già disposti per piombare loro addosso la notte stessa. Come il sole fu tramontato, Jonathan comandò ai suoi di vegliare e di tenersi in armi in modo da essere pronti al combattimento durante tutta la notte. Poi dispose sentinelle tutto attorno all'accampamento. Gli avversari, però, come seppero che Jonathan e i suoi erano pronti al combattimento, ebbero paura e si spaventarono nel loro cuore. Perciò accesero fuochi nel loro accampamento e fuggirono. Jonathan e i suoi non se ne accorsero fino al mattino, poiché vedevano ardere i fuochi. Jonathan allora si mise ad inseguirli, ma non riuscì a raggiungerli, poiché avevano attraversato il fiume Eleutero. Jonata si diresse contro gli arabi chiamati Zabadei, li batté e prese le loro spoglie. Quindi, tolto il campo, andò a Damasco e percorse tutta la regione. Anche Simone era partito e si era recato fino ad Ascalona e alle fortezze vicine. Poi piegò su Giaffa e l'occupò. Egli, infatti, aveva saputo che volevano consegnare questa fortezza ai partigiani di Demetrio, perciò vi pose una guarnigione e la fece custodire. Appena tornato, Jonata convocò gli anziani del popolo e con loro decise di edificare fortezze nella Giudea, di sopraelevare le mura di Gerusalemme e di alzare una grande barriera fra l'Acra e la città per separarla dalla città, affinché fosse isolata in maniera tale che quelli dell'Acra non potessero né comprare né vendere. Allora si riunirono per riedificare la città e poiché era caduta una parte del muro del torrente dalla parte di Levante, Jonata fece riparare quello che è chiamato Cafenata. Simone, a sua volta, riedificò Adida nella Sefela, la fortificò e la munì di porte e di sbarre. Trifone, intanto, cercava di divenire re dell'Asia e di cingere il diadema stendendo la mano sul re Antioco. Temeva però che Jonata non glielo permettesse, che gli avrebbe fatto guerra. Perciò cercava il modo di catturarlo e di farlo perire. Pertanto si mosse e si recò a Beisan. Anche Jonata, uscito contro di lui con 40.000 uomini scelti per il combattimento, andò a Beisan. Quando Trifone vide che era venuto con un esercito numeroso, ebbe paura di stendere la mano su di lui. Lo ricevette con onore e lo presentò a tutti i suoi amici. Gli offrì doni e ordinò ai suoi amici e alle sue truppe di ubbidirgli come a se stesso. Poi disse a Jonata: «Perché hai scomodato tutta questa gente se non vi è nessuna guerra tra noi? Ora perciò rimandali alle loro case, scegliti pochi uomini che siano con te e vieni con me a Tolemaide. Io te la consegnerò insieme alle altre fortezze, alle altre truppe e a tutti i funzionari. Poi, presa la via del ritorno, me ne andrò, giacché per questo son venuto». Jonata gli prestò fede e fece come lui aveva detto. Rimandò le truppe che ritornarono nella terra di Giuda e trattenne con sé 3.000 uomini, dei quali ne lasciò 2.000 in Galilea e soltanto 1.000 andarono con lui. Come però Jonata fu entrato in Tolemaide, i tolemaidesi chiusero le porte, lo catturarono e passarono a fil di spada quanti erano andati con lui. Trifone poi inviò le truppe e la cavalleria in Galilea e nella grande pianura, allo scopo di annientare tutti gli uomini di Jonata. Questi però, avendo saputo che egli era stato catturato e che era perito insieme agli uomini che erano con lui, si esortarono a vicenda e avanzarono schierati, pronti a combattere. Allora gli inseguitori, vedendo che essi lottavano per la vita, tornarono indietro. Vennero perciò tutti in pace nella terra di Giuda, piansero Jonata con i suoi compagni e furono presi da gran timore. Tutto Israele fece un grande lutto. Tutte le nazioni che erano intorno a loro cercavano allora di distruggerli. Esse infatti dicevano: «Non hanno più un capo né uno che li aiuti. Ora dunque facciamo loro guerra e sradichiamo la loro memoria di mezzo agli uomini».